sa. Che bello. Sa, sa, sa. Prova. Buonasera a tutte e tutti. Cominciamo questa cosa strana che si chiama concerto in presenza. Thank you. Davide, si sente? Chiedete a Cito. Thank you. Thank you. Grazie, grazie. Adesso faccio un pezzo di John Fay. Si chiama Sligo River Blues. Thank you. benissimo, lo so. Ditemi voi. Allora, faccio un pezzo che poi un amico mi raggiungerà sul palco in questo momento. La seconda parte, tutto improvvisato, fatto mezz'ora fa. Quando sarà il momento lo capirà. Yes. Thank you. Zia Klaus. Thank you. Bene, io finito. Ammazza quanto arriva. Grazie, grazie a tutti.